Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia, di Dino Pesole. Agricoltori, coltivatori diretti, la ricostruzione economica del paese, quanto mai urgente, richiede la pronta cooperazione vostra. È quindi necessario che voi, coltivatori della terra, provvediate alla tutela dei vostri particolari interessi, perché l'opera vostra nella vita dei campi torni vantaggiosa per gli interessi generali della nazione. Con queste parole, contenute nel manifesto con cui veniva annunciata la nascita della Federazione Italiana dei Coltivatori Diretti, aveva inizio la lunga storia di quella che è stata definita la più grande organizzazione di massa in Italia. La decisione di dar vita a una federazione che tutelasse gli interessi degli agricoltori e dei coltivatori diretti era stata assunta in seguito a una riunione svoltasi a Palazzo Serlupi Crescenzi il 30 ottobre del 1944. Cominciava così la lunga storia della Coldiretti, che per un lungo periodo, dal 1944 al 1980, fu presieduta da Paolo Bonomi. Ora le vicende della Coldiretti vengono ripercorse in un libro appena pubblicato da Donzelli, dal titolo La Coldiretti e la storia d'Italia, rappresentanza e partecipazione dal dopoguerra agli anni Ottanta. Libro scritto da Emanuele Bernardi. Il professor Bernardi insegna storia contemporanea nel Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo dell'Università La Sapienza di Roma. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera e grazie per l'invito. Allora, la storia della Coldiretti si intreccia per lunghi decenni con quella dell'economia, della società, anche della politica nel nostro paese, dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale fino almeno all'affermarsi del completo passaggio da una dimensione prettamente rurale e contadina all'industria e per certi versi anche a una dimensione post-industriale. Allora, professor Bernardi, ascoltiamo insieme questo passaggio che illustra bene i contenuti del volume. La Confederazione dei Coltivatori Diretti è ancora oggi largamente rappresentativa del mondo agricolo italiano, ma la sua storia, iniziata con la fondazione nel 1944, è intrecciata inestricabilmente alle vicende più generali del nostro paese. Tra locale, nazionale e globale, la Coldiretti si vide coinvolta nei momenti più significativi della storia d'Italia, dagli appuntamenti elettorali alle crisi internazionali. Le rivolte nel mondo sovietico del 1956 e 68, il muro di Berlino, la strage di Piazza Fontana, dai problemi della produzione a quelli dell'ambiente e del welfare state, dalla centralità della quantità di cibo a quella della qualità, con l'affermarsi del mangiare italiano. Erede del processo di nazionalizzazione delle masse e del cibo avviato con la Prima Guerra Mondiale e dal fascismo, la Coldiretti visse così tutte le diverse fasi della vita della Repubblica e le contraddizioni di lungo periodo del miracolo economico, per confrontarsi con l'ascesa di populismo, antipolitica e antieuropeismo. Quasi che i recenti sviluppi politici e sociali del nostro paese trovino nella seconda metà del Novecento alcune delle loro radici e spiegazioni. Ne emerge il profilo di un'organizzazione capace di seguire i propri associati dalla culla alla tomba, ma anche in grado di influenzare la storia nazionale. Allora, professor Bernardi, il libro è dedicato agli anni cruciali della lunga presidenza di Paolo Bonomi dal 1944 al 1980. Bonomi è definito come una sorta di genio del fare. Ecco, parliamo proprio del ruolo centrale che ha svolto Bonomi nel corso della sua lunga presidenza. Beh, certamente Bonomi conferisce alla Coldiretti una spinta e un carattere inconfondibili, anche se non è facile riassumere 40 anni di presidenza. È una figura che cerca di strutturare una propria identità e di rimanervi fedele ai principi cristiani come all'anticomunismo, ad esempio. Io però per comodità differenzierei il Bonomi dell'origine degli anni 40 e 50 da quello successivo, anche perché siamo in due contesti, quasi due Italie differenti, e infatti il libro vuol legare la storia della Coldiretti appunto alla storia d'Italia. E in quella uscita dalla guerra è il Bonomi che vuol contare e far contare i coltivatori diretti, che rompe con la Confederazione Fascista degli Agricoltori e con la CGIL. E poi addirittura, cosa poco nota, resiste anche al progetto di una grande confederazione bianca, quella che sarà la CISL oggi. Mm-hmm. E per far questo è convinto di dover controllare alcuni organi essenziali per l'agricoltura, in primis la Federconsorzi, e che sia altrettanto necessario avere una relazione strettissima con il partito centro del sistema politico, la Democrazia Cristiana. Infatti, proprio da questo punto di vista, la Coldiretti è sempre stata rappresentata come una sorta di collettore di voti della DC, no? Il collateralismo della Coldiretti con la Democrazia Cristiana. Ma è una lettura esaustiva? Direi di no, nel senso intanto che la Coldiretti coltiva fin dall'inizio una specifica autonomia. E poi in questo caso credo sia molto più corretto utilizzare il concetto di collateralismo alla rovescia. È lei stessa che costruisce una propria presenza nello Stato, nella società e nei territori, e cerca di condizionare da quelle posizioni di forza la linea economico-sociale del partito a livello nazionale come a quello locale, surrogandone in alcuni casi l'organizzazione. E poi è la Coldiretti con il coinvolgimento della Federconsorzi che finanzia una parte almeno delle campagne elettorali della DC. Ecco, quindi il rapporto c'era. E poi c'è un ruolo della Coldiretti nell'evolversi dell'economia della società italiana dal secondo dopoguerra in poi, quindi è un soggetto rappresentativo del mondo dell'agricoltura e dei coltivatori che ha un ruolo importante nell'evolversi dell'economia della società italiana. Sì, io lo definirei a tratti un ruolo propulsivo, diciamo così, a tratti un ruolo stabilizzatore. E davvero, seguendo nella storia, si può ripercorrere una sorta di autobiografia della nazione. Tra i settori di impegno specifico, sicuramente la costruzione del welfare contadino, le pensioni, gli assegni familiari, l'assistenza medica, ma anche una funzione appunto di stabilizzazione meno nota che emerge dalle carte che ho potuto vedere per la prima volta presso l'archivio della Coldiretti, in alcune situazioni particolarmente delicate, dicevo, come l'attentato alla Banca dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano nel 1969, quando appunto la Coldiretti svolge un ruolo pacificatore, cerca di costruire una relazione positiva, diciamo così, con non solo con i propri associati, ma anche con le altre organizzazioni e col sistema paese in generale. Quindi c'è sia un aspetto economico specifico che ha a che fare con la costruzione delle relazioni tra agricoltura e industria, che passa attraverso la Federconsorzi, sia un ruolo più eminentemente politico che la Coldiretti svolge. Tutto ciò entra in difficoltà, in sofferenza, in crisi, direi, negli anni 70, quando quel paese di cui abbiamo parlato prima è cambiato profondamente, o sta cambiando profondamente, all'interno di un contesto internazionale che pure sta cambiando per la crisi petrolifera. Certo. E gli accordi Bretton Woods che non hanno più vigore, insomma una serie di aspetti macroeconomici che rimettono un po' in discussione alcune scelte politiche che erano state fatte nei decenni precedenti. Ecco, a questo proposito è molto interessante indagare sul contributo di Coldiretti all'affermarsi di uno dei punti di forza della nostra economia, vale a dire l'agroalimentare. Anche oggi è uno della punta di diamante, se vogliamo, no? E anche in questo probabilmente bisogna ricordarlo, sottolinearlo, che c'è un rapporto molto stretto. Assolutamente sì, io mi sentirei anche di dire che in una fase quale quella che stiamo vivendo gli agricoltori tutti, sia quelli rappresentati dalla Coldiretti come dalle altre organizzazioni, stanno svolgendo un ruolo per certi versi sconosciuto, diciamo, che arriva raramente ai mass media, ma invece è importantissimo per reggere la stabilità economico-sociale del paese. E ovviamente l'agricoltura ha avuto, lo sappiamo, in quest'ultima fase, diciamo dalla crisi internazionale, economica internazionale del nuovo secolo, anche una funzione anticiclica. Abbiamo in alcuni casi insomma percentuali interessanti di giovani che tornano alla terra, un certo apporto all'occupazione, allo sviluppo del biologico. Io direi che senza la continuazione di queste attività il paese sarebbe in grandissime difficoltà e la crisi che stiamo vivendo sarebbe ancora più profonda. Sì, questo serve ribadirlo, perché molto spesso si rappresenta l'agricoltura come un settore marginale, no, per la crescita dell'economia, e invece proprio per quello che lei sta ricordando il ruolo c'è ed è anche importante. Assolutamente, poi se pensiamo anche, ovviamente andiamo a vedere all'export, alle percentuali dell'agroalimentare, sono davvero rilevanti, e immagino che anche con gli investimenti del Recovery Plan questo settore riceverà un'attenzione e una spinta ulteriore che speriamo la Coldiretti, come le altre organizzazioni, facendo sistema, siano in grado di sfruttare nel modo migliore, insomma, ecco, penso. Bene, sì, grazie. Allora, noi abbiamo esaurito il nostro tempo, ringraziamo Emanuele Bernardi, abbiamo parlato del suo interessante libro La Coldiretti e la storia d'Italia, rappresentanza e partecipazione dal dopoguerra agli anni Ottanta. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Luca Cremonese in redazione. Cari ascoltatori, a risentirci alla settimana prossima. Buona serata a tutti, grazie ancora professor Bernardi. Arrivederci, grazie a voi. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.